ascolto la tua voce, al di là del silenzio ti ritroverò, scarabocchiando le stelle fra le dita, al di là dei tempi tu sei eterna. Quanto ti voglio, quanto ti amo, tu sei per sempre il mio amore eterno. Come mi manchi e come ti amo, tu sei per sempre il mio amore eterno. Ogni sera, quanto ti voglio, quanto ti amo, tu sei per sempre il mio amore eterno. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. cammino e cammino, ma non saccia dove vado, visto sempre embriaco e non bevo mai vino. Saccio fatto un nuovo bianca col cuore blu. Passa l'amore can più non te la so più. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Dicite in cella sta compagna vostra, che ciò perduto sonna fantasia. Che penso sempre che tutta vita mia se dicere, ma non ci saccia di. Passione, più parla. gente v'è caduta. Ditemene un poco a che pensate. I suoi occhi e basse, voi solo ne guardate. Levame c'è sta maschera, dicimma verità. Mamma, son tanto felice e vivere lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, ma ninna nanna dall'o. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Solo per te la mia canzone vola. Con me tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quando a notte se ne scenna, mammuscia chi suo occhi è stanca. Quando io veglio e tu me manca, sento smania te basare. Tu chiama chiaro giorno, ma bella questo chiarore, e qua notte d'into cuore, mia me vela di perché questa scimania non me vola sa. Quando me fa morì tu per e vuota me, mamma mia che da sapè, mamma mia che da pura, non me fido da vasà. Mamma mia sta picchiarella che mi guarda per golire, cuocere. Mamma mia, non può capir perché questa scimania non me vola sé. Che sapete con banangio le punta, mamma mia che da curra. Mamma mia che da curra. Appuntamento, guardo mare, guardo fronne, si te parlo non risponde, sei distratta con ma che, io te tengo d'into cuore, sono sempre innamorata, ma ti invece piangerato e te stai scordando me. Se dice sì, tienelo a mente, non s'attraffa a morire un cor avante. Tu mi diciste sì, la sera è matta. So sincere, mamma quando manco un traste, mamma quando me diciste voglio bene sulla te, e tremando me giuraste una mano un troppo cuore, non si scorda prima amore o tu stai scordando me. Io la canti, non vuoi la mamma. mamma mia, vorrei saper perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo cantar la frase che m'ha fatto palpita. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angeli mio, oh bella innamorata, tesoro mio, qui sotto le vini vieni a passeggiare, che lo sentiva il solito cantar. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringimi, o cara, stringimi al tuo cuore. Ricordi ancora il dì che ci incontrammo, le tue promesse ricordi ancora, folle d'amore io ti seguì, ci amammo e accanto a te sognai. Felice di carezze e baci, una catena di nevante in ciel, ma le parole tue furon mendaci, perché l'anima tua fatta è di gel. Avrei dato il mio sangue, però cerca a te non penso, sogno un altro ideale, non t'amo più. Partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore di felicità, la mia piccola rondine partì. Lasciare un bacio senza un addio fuggì. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Per te non ti scordare, la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quanta barca mare in mare che se vedono stasera. Una luce sott'aurora, pare castelle so caduta a mare. Tutte bellezze nature, la notte core mio avria cantà. I'm braccio cantatore, Caricina appena sera, la turmetta leva il cuore e poi l'abbandono è scelta da mare. Tu pure miezze nuvole, stuccore ma dormisci in braccio a te. Sto a soffrì tutte di strada. cielo mio, lasciala stare. Cuore ingrinato dai piedi alla vita mia, che mi riscalda e che mai brucia. Tu sei la strada dove i miei passi mai si sbagliarono. Saggia compagna le tue parole, sicure come il nuovo sole. Il nostro sogno, 40 anni presso a te, pien di sfide, di vittorie, dove lacrime e gioie danno forza al nostro cuore. Tu sei la luna, io sono il sole, ma sempre insieme. Anche se il giorno diventa notte, nessuno dorme. Tu mi proteggi, io ti bacio, e se ti perdi non ti lascio. Sono più di 100 vite, di cui altri hanno bisogno per realizzare il nostro sogno. Realizzare il nostro sogno. com'è bella montagna stanotte, è bella così, nulla c'ho vista mai. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tinta una stanzunella fredda scura, padrona vota il cetra se va sole. Mostonga sulle tende una paura, a poco vengo un cuore. Paura che mi struia sta malattia, senza avere chi un'amore, senza avere chi a te. Furia tornato te, penara sola, amore mio. Sentire cantare con mille mandurine e vorria tornare di te con bada voga amore mio che voleva stare e mi senti abbracciare sta frena. Thank you. curia turnato te era la sola tua pure mia curia